after day. Alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. Ciao a tutte e tutti. Rieccoci con la seconda parte delle nostre utopie Cyberdada, la rubrica della comunità invisibile. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Insieme potremmo, con i vostri interventi, le vostre idee, le vostre proposte, che spero numerosi, sperimentare un percorso di coscientizzazione comune, una sorta di autoeducazione, differente da quella che finora è stato lo strumento finale dell'omologazione degli esseri. Una educazione che sia conoscenza che unisce, e che sia la capacità di comprendersi, di leggersi, di essere intelligibile. Una capacità che percepisca l'esistenza dell'altro e di ogni cosa per riconoscimento in un principio di equivalenza, perché noi stessi esistiamo insieme a queste realtà. Una educazione secondo la quale ognuno è per l'altro fonte di sapere, senza trasmettere necessariamente nessun sapere specifico, ma semplicemente spingendolo ad attuare la capacità che già possiede, quella che ognuno di noi ha dimostrato riuscendo, senza maestri, il più difficile degli apprendimenti, quello di questa lingua straniera che è per ogni essere venuto al mondo la lingua cosiddetta materna. Seguendo la lezione del maestro ignorante Jacques Toth, di cui il filosofo francese Jacques Rancière si serve per denunciare la dissonanza inaudita sulla quale si perpetua il paradosso estremo delle pedagogie del nostro tempo. We don't need no education. We don't need no thought control. Sarcasm in the classroom. Teach and leave them kids alone. Breaking the wall. osservando questa linea di fuga, pensare allora la nostra vita in termini di azioni circoscritte e di universale concreto, come specifica il filosofo e psicanalista argentino Miguel Benazayag. Sperimentare un altro tipo di funzionamento, contraddistinguersi con una volontà radicale al cambiamento nelle menti e nei corpi, qui ed ora. Provare che già fin d'ora è possibile agire secondo un'altra logica, che non sia quella produttivista del profitto e dell'autoritarismo. Attraverso dinamiche transitorie, mettere in discussione il sistema stesso, celebrare le idee di bene comune, di interesse generale, di diritti universali, di gratuità e di diversità per un accrescimento umano nella solidarietà. Irriducibili, rifiutare e resistere alle ingiustizie, alle ineguaglianze, ancora di più se tutto ciò è inimmaginabile per alcuni o sfortunatamente impraticabile per altri. Ils vont vous les faire payer, les cendres qui resteront, c'est pas eux qui les ramasseront, mais les esclaves et les cons qui n'auront pas su dire non. Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. Pimpronel et Nicolas, vous nous endormez comme ça. Le marchand de sable est passé, nous on garde un œil éveillé. Oh la peur, oh le vide, oh la victoire des avides. Faut pas bouger une oreille, toutes sortes de chiens nous surveillent. Pas un geste, une esquisse, sinon on tourne la vis. Nous on n'a rien à gagner, mais on ne peut plus perdre, puisque c'est déjà fait. Toi qui viens de loin d'ici, avec ta peau et tes os, on t'a parlé de paradis, on t'a menti, tout est faux. Oh, ami, oh mon frère, tout sonneur perdu pour la guerre. Tu vas voir tout l'amour qui traîne au fond des discours. Dis t'en veux, des papiers, dis tu l'as vu mon palais. Oh t'auras rien, c'est ainsi, c'est pas fait pour les perdants, le paradis. Il y a la chair à canon, il y a la chair à spéculation, il y a la chair à publicité, enfin il y a tout ce que vous aimez, vous et moi on le sait. Le spectacle est terminé, pourtant c'était presque idéal, c'était loin du féodal. Oh maintenant c'est foutu, ça fait joli dans ton fort intérieur. C'est gênant de rejoindre comme ça la cohorte des perdants. Faut pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action. Et pour nos âmes c'est égal, Dieu n'est pas dans la bataille. Oh messieurs les décideurs, de toutes parts, de tous côtés, sachez que profond dans nos cœurs, on n'arrête pas le progrès. Sous l'iris, sous la peau, sous les ongles et dans les tours, on pourra toujours refuser de devenir les premiers ou les derniers. E allora sognare, indignarsi, combattere per un'altra civilizzazione, in una convergenza di lotte, perché se riflettiamo fino in fondo, se vogliamo trovare soluzioni reali e durevoli, tutte le lotte non ne formano in realtà che una sola, in una fusione dinamica e feconda di arricchimento e di espansione, anziché irrigidirsi in una giusta posizione eteroclita, limitata e alla fine sterile. E a quelli che con squallidi ricatti vorrebbero fare di noi dei senza voce, ripetendoci che non abbiamo proposte concrete da formulare, rispondiamo con le parole del filosofo Daniel Bessaïd, uno dei principali teorici della Ligue Communiste Révolutionnaire e membro del segretariato unificato della Quarta Internazionale: l'indignazione è un inizio, un modo di alzarsi e di mettersi in cammino. E noi potremmo aggiungere che questa sacrosanta indignazione è un'azione che ci accompagna sul percorso di una crescita personale e collettiva. Perché lottare, criticare i totalitarismi esistenti, proporre altri modi di vita, ci spinge soprattutto a vivere concretamente altrimenti, ci aiuta ad evitare di riprodurre le alienazioni e le oppressioni contro le quali resistiamo, ci sprona a mettere in discussione le nostre mentalità, a cambiarle, vivendo diversamente su tutti i piani, economia, politica, relazioni, educazione, permettendoci così di trasformare questa triste società in una società in cui finalmente tutte le lotte diventerebbero inutili. Allora vi ripeto l'invito a fare vostra questa rubrica, invitandovi ad inviare le vostre suggestioni all'indirizzo mail della radio o ancora meglio venire in studio a registrare la vostra trasmissione, nell'attesa di leggervi, ascoltarvi e meglio ancora incontrarvi. Vi do appuntamento tra una quindicina di giorni. Evviva le utopie!